Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Oh, dunque, benvenuti a Möbius. Scusa Chiara, sposta lo stendino, aspetta, perché sennò non si riesce a suonare l'innaffiatoio. Sì, ha ragione, siamo invasi. Va bene, vediamo se la portiamo a casa questa puntata. Benvenuti a Möbius e i titoli, e poi tentiamo di iniziare. Ricicliamo Jingle Bells. I nostri auguri natalizi ve li suoniamo dal vivo. In studio con noi il gruppo Manzella Quartet si esibisce con cestelli di lavatrici, pentole e imbuti. La scienza dal giocattolaio. Torniamo bambini per scoprire la fisica, la chimica e la tecnologia che si celano nei giocattoli con i quali siamo cresciuti. Una nuova intrigante storia della nostra clinica veterinaria. Il mistero dei galli dalla coda spelacchiata. Possiamo dire che questa è la nostra puntata natalizia. Di musica riciclata, ovvero? Ovvero i Manzella Quartet ora si esibiranno nella versione riciclata di Jingle Bell. Cosa significa? Che suoneranno degli strumenti fatti di oggetti riciclati. Trovate in discarica. Via! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, the fields we go, laughing all the way. Bats of buttering, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Manzella Quartet, adesso li dobbiamo presentare. Sì. Allora, Giovanni al bidonbasso. Buonasera Giovanni. Ciao Chiara, ciao. Adesso ce lo farei sentire, ma introduciamo anche gli altri. Simone all'eco batteria. Buonasera a tutti. Max al washboard, allo stendofono e al battifono e ai cori. Ciao a tutti, ciao ciao. Alex ovviamente la voce, la tegliarra. Tegliana, che vuol dire? Una teglia. Ma ora ci arriviamo, e poi Dulcis in fondo è il nostro Alberto Agliotti all'innaffiatofono. Eccomi qua, mi sono riciclato anch'io. Okay. Ecco, allora, perché li abbiamo chiamati? Allora, ecco, intanto non perché... ho capito però. No, vabbè, intanto perché è perché una bellissima introduzione alla nostra puntata natalizia. E poi perché hanno appena partecipato al primo Festival Nazionale degli Strumenti Musicali Riciclati, che è stato appena organizzato a Roma, si chiamava L'Ambiente si nota, ed era un concerto a scopo benefico. E adesso al telefono ci ha raggiunto anche l'organizzatore per dirci che insomma hanno raccolto un bel gruzzoletto, come lo spenderanno. Ovviamente hanno partecipato anche i Manzella Quartet, che sono qui con noi questa sera. Diamo il benvenuto a Postillo Massimiliano. Buonasera. Ecco, lei era l'organizzatore di questo festival, è andato molto bene, lo sappiamo, loro li abbiamo sentiti, sono bravissimi, continueremo a sentirli nel corso della puntata, ma insomma, com'è andata la raccolta fondi e soprattutto a cosa serviranno questi soldini? Beh, direi che insomma la prima edizione è andata molto bene. Mi piace sintetizzare con tre parole quello che è un po' l'iniziativa, e dunque ambiente, musica e solidarietà, che è stata appunto la prima edizione di un festival nazionale degli strumenti musicali riciclati. E per la prima volta in Italia abbiamo coinvolto quelli che sono le più importanti eco band in Italia, e come dicevi tu prima, anche per un'iniziativa benefica. Abbiamo raccolto insomma un piccolo gruzzoletto che pensiamo sia utile alle due associazioni destinatarie. Una italiana, che è la comunità di Sant'Egidio, che sin dalla sua fondazione si occupa di pace nel mondo, dell'infanzia, e anche un'associazione internazionale paraguayana, nello specifico Sonidos de la Tierra, tra l'altro quest'anno è il 10° anniversario della nascita, associazione che è stata fondata ed è presieduta da, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo, che si chiama Luis Zaran. La ringrazio Postillo, intanto noi invece approfittiamo della presenza dei Manzella Quartet, no, Federico? Che ci devono spiegare un po' come funziona questa loro ricerca di strumenti, nelle discariche principalmente, ma un po' dove capita. Vogliamo provare a sentirne qualcheduno, uno per volta, anche quello di Alberto, che vedo che sta smanettando il suo innaffiatoio che ha costruito e bucato nella notte. Dai, parti tu Alberto, faccelo sentire. Dai, parti tu. C'è tutta una ricerca dietro, non vi immaginate. Allora, in questo momento lui sta... ha in mano un innaffiatoio normale, color verde, dove hai fatto dei buchi sul becco, no? Sulla parte... sulla canna, se così si chiama. Sulla canna dell'innaffiatoio. Da dove esce l'acqua? Hai fatto dei buchi. Da dove uscirà l'acqua adesso che ho fatto i buchi? E poi c'hai un classico... E poi un classico bocchino da sassofono, questo non è riciclato, o meglio riciclato da un sassofono, perché il principio alla fine è lo stesso, cioè qua c'è un bocchino con un'ancia, che è un pezzettino di legno, insomma, che vibra quando si soffia, però... il sassofono poi prosegue con un tubo di metallo con dei buchi, e insomma più il tubo è lungo più la nota diventa grave, cioè quella più bassa, diciamo. Man mano che si aprono questi buchi si fanno le note più acute. Qui io ho realizzato dei buchi nella canna dell'innaffiatoio, e quindi in corrispondenza cosa viene fuori? Ma ci sentire. Escono queste notacce sentito che, prima ma, sì. È un suono bellissimo. Bellissimo, che può sostituire quello del sassofono. Assolutamente sì. E per chi non ci credesse, noi abbiamo documentato tutto con video e foto che trovate ovviamente sul nostro sito www.moebiusonline.eu. A chi tocca? Sotto Giovanni col bidon basso. Oh, il bidon basso è composto. Manico di scopa. Manico di scopa, filo per stendere i panni. Fondamentale. Assolutamente. E bidone dell'olio. Bidone dell'olio. Sì. E dunque il filo è uno. Cioè, il filo è uno, purtroppo. No. Anche perché su un manico di scopa è sarebbe stato complicato metterne di più. Però non è detto. Oppure è detto. Potrebbe esserci un'evoluzione. Si può fare, però direi che ha poco senso. Sì. È molto più simpatica una corda sola, perché poi diventa un basso vero. Da fastidio. Giovanni, facci sentire. Intanto ricordiamo che Giovanni è il fondatore, creatore della band, più anziano e più serio, ma beh, no. Questo noi non l'abbiamo detto, però come corda è perfetta, assolutamente sì. E tu riesci, andando su e giù con le dita, a darle lui scorre praticamente sul bastone anche il bending della chitarra. No, che questo perché questo tirando. Senta, facciamolo il manico sentire di scopa. Bene. Ehi. Spettacolare, bellissimo. E questo con un contrabbasso vero non riesci mica non a farlo. Non riesci a farlo. Grazie, Beth. A meno che non smonti il manico. Ecco, io però vorrei chiedervi una cosa. Voi state anche cercando delle sonorità nuove, perché in effetti qui avete... Ci sono delle, come dire, preziose e significative differenze tra questi strumenti e quelli classici consolidati. Però voi guardate anche gli oggetti, perché potrebbero venire fuori dei suoni nuovi. Tutto suona, per cui basta trovargli la giusta collocazione. Qualsiasi cosa suona. Salgo le scale, si apre la porta. Dritto al bancone una coda infinita, chi se ne importa. Guardo i panini nella vetrina. Felino, caprese, camogli, una tipa di fa in cucina. Ne scelgo uno, senza fiatare. Panino leggero con tanta verdura, ma non esagerare. Dolce fanciulla con la divisa. Devo passare alla cassa perché qui nessuno si fida. Grande sorriso, non vuole un dolcetto? Con l'aggiunta di 80 centesimi ha un menù perfetto. Mangio il panino, bevo la coca. Mi guardo in giro una bella signora. Un bambino che gioca. Dov'è l'uscita? Seguo il cartello. 5 chilometri in mezzo all'offerta di questo e di quello. Senti che arietta, torno a guidare. Sono quasi vicino all'uscita e comincio a star male. Sono in ritardo. Cantù, siamo a Cantù. Porca paletta, il panino non va. Né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù, né su né giù. Vita spietata. Da, da, da, da, da, da. Panino? Panino assassino, questo è il singolo, il nuovo singolo dei Manzella Quartet che sono qui con noi in studio stasera. Allora ricordiamolo per chi si fosse unito solo ora, suonano oggetti riciclati. Abbiamo visto il bidon basso, abbiamo visto l'innaffiatofono, ora andiamo da Simone che suona la ecobatteria. Sì, una ecobatteria perché abbiamo tentato di riciclare tutto il possibile, tutto quello che suonasse in una cucina, in cantina, e quindi ho preso un bidone dell'immondizia che uso come cassa. Quelli neri condominiali. Sì, che suona così. E poi una serie di bidoni, padelle. Lì si sente che è una padella. Quella è una padella antiaderente. Rifanno un po'. E quella proprio si sente che è una padella. Poi lì cosa c'è? Un sottovaso? No, questo qua non è un sottovaso, ma bensì una pentola per le castagne, per cuocere le caldarroste. Per le caldarroste. Sì, sì, sì. Questa qua sono così. E questa non l'abbiamo mai sentita prima. Quella è una specie di sella. Per ultimo abbiamo un... Cos'è? Il coperchio di una scatola di biscotti, di dolciumi, su cui ho messo delle viti, che diciamo espandono un po' il suono, no? Certo. Ecco, questo, scusate, non è un suono che si sente normalmente. Questi qua sono abbastanza innovativi, diciamo, come suoni. Non tendono ad imitare una batteria reale. Questo è un pezzo di batteria veramente riciclata. Sì, sì, sì, sì. Qui non si scherza. Ma andiamo da Massimiliano, che invece è il percussionista un po' del gruppo, il factotum, perché suona washboard. Beh, una semplice asse classica, zigrinata, di metallo zigrinato, per lavare i panni, che sono andato direttamente a recuperare in Guatemala. Eravamo ecco, Giovanni, appunto, perché non la trovi qui da noi. Assolutamente, abbiamo viaggiato 12 ore per andare a trovarla a $2 in Guatemala, in un mercato popolare, e l'abbiamo portata qua. Cioè il nostro viaggio ha ottenuto soltanto questo. Scusami Max, stai suonando, sì, gli ascoltatori non ti possono vedere, sì, con un cucchiaio e una frusta è per le uova. Diciamo, è quello che rimane, cioè in pratica è la salma di un cucchiaino dopo i nostri concerti, è il, come dire, la mummia di una frusta da cucina che continua però a suonare. Sentiamo, sì. Facci sentire la frusta. Allora, la frusta ottiene questo suono. Sì, e il cucchiaino? Questo. È diverso, hai ragione, quindi... è diverso. Esatto. Allora, lui prima invece usava le bacchette da batteria, sì, normale, però voi qui invece avete individuato un oggetto che forse ne avete provati diversi, e questo è quello che vi soddisfa di più. Ci sono state diverse prove, sì. Tra l'altro di queste prove, cioè, c'erano molti frustini addirittura candidati. Abbiamo scelto il frustino in particolare. Che quel frustino lì. Abbiamo preso diversi cucchiai di diverse forme, diversi frustini, diversi oggetti. Bello. Nulla è a caso, quindi. Nulla è a caso. Giusto. Nulla è a caso. Però Max, scusa, puoi invece riprendere lo stendofono, sì, per cortesia? Certamente, grazie. Sì. Ok. Lo stendofono. Allora, lo stendofono. Perché? Che è veramente strepitoso. È molto bello da vedere. Allora, faccio anche una foto. Facciamo una foto. Allora, c'è un pezzo di stendipanni. Sì, fondamentalmente è uno stendipanni domestico, sì, normale. Diciamo, sulle cui sulle parti laterali sono state agganciate, sono state messe delle corde per chitarra. Ok. Normali. E come cassa armonica abbiamo preso una vecchia scatola recuperata. Il coperchio di una scatola di vini. Sì. Benissimo. Un ah, quelle di legno. Sì. Quelle okay, di legno, precisamente. Quelle di Natale proprio che si, sì, regalano. Esattamente, è sì, uno strumento abbastanza natalizio. Vai, facci sentire. Quindi, ed era l'inizio. strepitoso. E c'ha qualcosa di diverso, è vero che ha qualcosa di diverso. Sì, è un po' un'arpa. Tra l'altro la difficoltà in questo momento è riuscire a scordarlo al punto giusto. Non è facile. No. Tende a essere naturalmente accordato con il La 440, ma cioè riuscire a scordarlo in modo giusto non è facile. No, perché è tutto possiamo bullo. Dire che prima l'abbiamo accordato con una pinza. Eccola qui. Ecco, Max si esibisce anche con uno strumento che noi possiamo suggerire ai nostri ascoltatori, perché si trova in un sacco di uffici, che è il bidone dell'acqua, quella dell'apparecchio che la dà automaticamente. Boccione refrigerante. Boccione refrigerante. Quello di plasticona azzurra. È azzurra, sì. Di solito, che c'è tanti ricambi. Vai. Ecco, sei in ufficio. Beh, gli togliete l'acqua. Nulla da invidiare ai bonghi, no, di Jean Bé. Un ottimo, cioè, bongo. Ecco, un ottimo bongo. Veniamo ad Alex invece, la voce e la tegliarra. La tegliarra. Allora, questo è un altro strumento super riciclato. Apparentemente uno strumento abbastanza comune. L'estetica è quella di una chitarra classica normale, però con una sagomatura differente, adattata a una cassa armonica innovativa, che è una teglia per lasagne, che viene applicata a questa. Le classiche rettangolari. Avete provato diverse teglie anche qui? Classica. Allora, questa è il modello base, poi ci sarà l'evoluzione, la pesciera elettrica, che però la prossima volta la porteremo. Ci state studiando. C'è un lavoro di ricerca. Siete uno studio. Certo. Questo è il primo modello, diciamo che come modello base è funzionale, vabbè, perché ha una sonorità però molto. Bello, buono. Buona, similare a una chitarra classica, un po' più metallico, semplificato. E ha anche di buono che ha due sonorità differenti per le percussioni. Ai bordi. Parte metallica, certo. E parte legnosa, quindi. Ma tu qui hai scassato una chitarra normale e l'hai montata su una teglia da forno. Sì, giusto? In sostanza questo è il procedimento. È un adattamento un po'... È una chitarra un po' Frankenstein, diciamo, però ottima... strumento. No, perché poi il rendimento è fantastico. Io direi, magari facciamo ascoltare un altro pezzo dei Manzella, sì, che è strepitoso. Si chiama La Spesa. E adesso vi dico cosa mi è capitato per l'essere lunga. Per la spesa, preparare la cena, una cosa in fretta. Volevo solo comprare qualche cosa da fare, pane e latte fresco. Ma giro il contenitore, leggo gli ingredienti e poi tutto il resto. Tenere il prodotto in fresco, ma il 10 d'agosto, il fresco dov'è? La data della scadenza è indicata sul retro, ma il retro non c'è. E questo latte scremato, intero macchiato, ad alta digeribilità, sembra venuto da Marte, mi sorge un dubbio, che cosa sarà? È parzialmente scremato, con i carboidrati, valore energetico. Leggete qua, sembra venuto da Marte, ho tanta paura, che cosa sarà? Sembra venuto da Marte, ho tanta paura, che latte sarà? Ecco, Chiara, tu prima dicevi che in questi strumenti niente è a caso, però io aggiungerei che tutto è a casa, Sì. E quindi questo è un dramma per chi, se tu vivi con qualcuno che poi non si trova più, che ti smonta la lavatrice, la scopa, la teglia, certo. Perché cioè, loro guardano gli oggetti e li vedono smontati. Mia moglie sta ancora cercando la riloga delle tende. Perché ci stai lavorando sopra? Sì, no? È il bastone che ha usato prima. Il bastone delle tende. Infatti è strepitoso. Anzi, quando studiate nuovi strumenti, tornate e ce li fate risentire. Noi vi aspettiamo a braccia aperte. C'è una formazione proprio da camera, diciamo. Da camera, da cucina, da bagno, da qualsiasi stanza. Esattamente così. No, noi vi aspettiamo con strumenti completamente nuovi. Grazie mille ragazzi, e davvero buone feste anche a voi. Grazie a voi ragazzi. Buon Natale a tutti. Ciao a tutti. Ciao. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Beh, il film è stato, credo, visto molto, però non so se chi ci ascolta sa. Beh, dai, tutti. Questa è una colonna sonora che veramente nessuno può ignorare. Da Pulp Fiction. You Never Can Tell di Chuck Berry, bellissimo, quando Uma Thurman e John Travolta ballano a piedi nudi e vincono la gara di ballo, spettacolare. Ma perché iniziamo così in maniera spumeggiante? Allora, lo facciamo perché in realtà non c'entra niente, parleremo di un libro. Però un libro... ci piaceva questo no, pezzo. No, adesso tutto no, ha un senso. C'entra. Il libro si chiama La scienza dal giocattolaio, è un bellissimo pensiero per Natale, penso, sia per, forse non tanto per i bambini, ma più che altro per quelli che si sentono bambini dentro, ma ora lo spieghiamo. È di Davide Coero Borga, che è qui con noi questa sera, lo salutiamo. Ciao Davide. Buonasera a tutti. Ti diamo del tu perché sei divulgatore scientifico collega. Il libro è edito da Codice Editore e insomma adesso ci spieghi perché abbiamo iniziato con la colonna sonora di Pulp Fiction. Abbiamo iniziato con Pulp Fiction perché nella scena mitica in cui vanno a fare la gara di ballo nel locale, Uma Thurman e John Travolta entrano, vengono accolti da un cameriere tutto intabardato che li accompagna dentro una decappottabile, ma sullo sfondo che cosa c'è? Una pista a n.000 corsie, proprio una super pista polystyle con delle macchinine che corrono. Quelle che si schiacciava per dargli velocità, no? Esatto, che si schiacciava o con l'indice o col pollice, nella grande diatriba tecnologica. Queste tra qui il pollice che sentiamo e l'indice. Sotto. Ecco, questo rumore qua, quando andavano? Vabbè, ma vanno ancora? No, ma vanno, solo che un sacco di volte la macchina va fuori, non riesce, però i bravi. E qua è un problema scientifico, perché infatti bisogna andare a truccare il motore in qualche modo. Perché che brutta roba. Però diciamo che con le macchinine normali non si riesce ad andare più veloce degli altri, allora bisogna inventarsi un qualche cosa. Allora sono utili nel caso le leggi di Maxwell, e quindi si va a smontare il motorino elettrico, si cambia il cavo, la bobina di rame, magari si mette un cavo più spesso, si fa qualche giro in più e si spera che il motore non grippi nei primi due giri di pista. Però questo che tu ci stai raccontando nasce dal fatto che effettivamente c'è qualcuno che allora fa questo intervento, trucca la macchinetta elettrica. Ci sono e come, anzi ci sono fior di professionisti che hanno anche cambiato la carrozzeria alle proprie automobili scegliendo altri materiali che non siano la plastica, magari delle leghe, dei metalli, per appesantire oppure alleggerire, avere una tenuta migliore in strada. Scusate, sì, vi state escludendo perché state parlando di giocattoli prettamente maschili, ma nel libro ovviamente si fa incetta anche di giocattoli per le femminucce, e allora io a questo proposito ho preparato un altro audio. Crystal Ball. Con Crystal Ball ci può giocare. Crystal Ball. E tante cose da inventare. Crystal Ball. Non ci vuol niente da soffrire. Questa roba questo qui è un pazzesca, tormentone che pazzesco che credo non sia più in produzione, perché no. Lo è ancora, perché è stato inventato da un chimico brianzolo, quindi un'invenzione tutta italiana. Sì. Credo che si chiami Pasini di cognome, se non sbaglio. E questo imprenditore ancora la vende, è un laboratorio chimico. Quindi è proprio un chimico vero che ha realizzato un polimero che sperava forse poter essere utilizzato in altri contesti, invece a un certo punto diventa un giocattolo, uno dei giocattoli più venduti della storia. Sì, che di fatto era una pasta che si metteva all'apice di un tubicino, si soffiava e venivano dei palloni giganti. Ah, ho capito adesso cos'era, che Crystal Ball. Che difficilmente si bucavano e si potevano anche appiccicare l'uno all'altro. Che esatto, bello. Serviva soprattutto per noi bambini bambini degli anni 80 a non rovinare gli n.000 soprammobili che popolavano le nostre credenze. Ecco, è vero. Infatti, dobbiamo dirlo, nel libro c'è proprio una popolazione anni 80, diciamo, perché questi sono giocattoli che alcuni sono ancora in produzione, ma ad esempio il dolce forno Arbert, sono tutti scomparsi. Questi, ma qualcuno è scomparso, i Meccano ci sono ancora, però decisamente... Sono sofisticatissimi i Meccani di adesso. Oggi il Meccano è sofisticatissimo, però è molto interessante il fatto che il rapporto e i moduli del Meccano siano ancora gli stessi dei primi del Novecento. Quindi se oggi noi prendiamo i pezzi moderni del Meccano e li montiamo con quelli del storici da collezionisti, funzionano. Uno avesse una vecchissima scatola di un Meccano di 50 anni fa, esatto, avesse la mitica confezione 1 e i più fortunati, i figli dei borghesi di allora, la confezione 10, che era quella con cui si poteva costruire una gru alta 2 metri. No, tra l'altro voglio dire, io il libro ce l'ho qui tra le mani, è veramente accattivante sia la grafica, ci sono un sacco di disegni, sì, è bello. Molto bello Davide, un sacco di colori, è veramente divertente, e poi ci sono tantissimi giochi, cioè io qua veramente ho avuto l'imbarazzo della scelta nella selezione. Devo dire che il libro inizia con uno dei capitoli sull'hula hoop, e io sull'hula hoop sono sempre stata una frana, però visto che ha vinto un Ig Nobel, e noi siamo esperti di Ig Nobel qua a Mevius. Io anche ero abbastanza negato all'hula hoop, però ci sono due ricercatori, uno dell'Università del Connecticut, un altro di Yale, che si sono adoperati per studiare a livello neuroscientifico cosa succede al nostro cervello quando comandiamo ai fianchi di tenere in equilibrio un hula hoop. E che cosa diavolo è venuto fuori? Ma il risultato è che è effettivamente un movimento molto complesso che non tutti i cervelli sono in grado di gestire. Loro hanno pubblicato questo articolo e poi dopo si sono guadagnati il loro premio Ig Nobel. Ma no, scusa, non ho capito bene. Milioni fanno girare l'hula hoop. Ci sono alcuni che non ce la fanno. Alcuni come non ce lei, la fanno. Esatto. E adesso noi sappiamo perché lei non riesce a farlo. Esatto, perché a livello neuronale il coordinamento con i muscoli, siccome è un movimento complesso, perché si tratta di un ovale, che è la nostra vita, che si srotola attorno invece al cerchio. Un cerchio perfetto. Perfetto, quindi bisogna sollecitare con i fianchi, con questo movimento sexy che non poi... sei coordinata. Sì, qualche sospetto sulla coordinazione con i mi era venuto. Chiamiamoli fianchi. Lei non ha un coordinamento con i fianchi. Non entriamo nei dettagli. Comunque, qua i giochi che vengono raccontati sono tantissimi. Ci sono i classici, ovviamente, l'aquilone, lo Shanghai, la bussola, il mappamondo, il microscopio e chi non ha giocato con l'allegro chirurgo. Ma scusami, Federico, rubo ancora un attimo di attenzione a Davide per il gira la moda, che sicuramente tutte le donne conosceranno. In regia cosa fate? Se a me piaceva gira la moda. Non sappiamo cos'è sto gira la moda. Allora Davide, spiegalo tu. Gira la moda è sono dei cerchi concentrici, tre, con sopra disegnati dei figurini femminili, delle parti del corpo diverse, la testa, il busto e le gambe. Si possono mescolare, perché ci sono sopra i cerchi disegnati diverse gambe, diversi busti, diverse testoline. E ruotano, diciamo, ruotano i cerchi. Ovviamente si possono incastrare e comporre un figurino, un modello. Che poi si può colorare anche usando diverse texture. E qui l'aspetto scientifico? Ecco, veniamo qua, a noi. Qua l'aspetto scientifico è interessante perché quelle giovani bambine che volevano diventare da grandi stiliste, o i giovani metrosexual di allora che volevano fare gli stilisti poi da grandi, componendo il loro figurino, ogni volta essendo a base esagonale poi questa struttura, componevano per serendipità, quindi per casualità, altri 5 figurini. E poteva capitare a volte che una volta composto il figurino si notasse quello a fianco che era migliore, però è un risultato del tutto casuale, e venisse scelto per poi realizzare il disegno. Cosiddetto fattore C anche. Fattore C. Ah, qui allora tu lo introduci perché uno dei concetti fondamentali della ricerca scientifica è che certe cose si scoprono per facendone caso. Altre, no? Sì, ne fai alcune e di lato ti viene fuori il coniglio che esce dal cilindro. Pensiamo all'LSD che è stato scoperto perché il ricercatore non si è lavato le mani, oppure alla dinamite con la nitroglicerina che cade sopra un sacco di sabbia, o ancora il Viagra scoperto dalla Pfizer mentre cercava un medicinale per l'angina. Federico, preferisci parlare della Barbie o del piccolo chimico? Della Barbie, dai, so che è una cosa che ti entusiasma. C'è una bellissima storia, Davide, vorrei che tu la raccontassi. Ti giuro, non lo sapevo che la Barbie fosse coinvolta in uno scandalo di Greenpeace. Così è, perché i ragazzi di Greenpeace scoprono nel 2011 che molta parte dei packaging delle grandi aziende di giocattoli arriva da foresta non certificata, in particolare arriva dal disboscamento della foresta pluviale dell'Indonesia, e per denunciare questa loro scoperta non decidono di fare un attacco pubblico alla Lego, alla Mattel, all'Hasbro, alle grandi multinazionali del giocattolo, ma si inventano un oggetto di comunicazione curioso e un piccolo cartoon animato in 3D dove la troupe di Greenpeace va da Ken fidanzato Carson, storico di Barbie, esatto, per rivelargli questa scomoda verità. È una scomoda verità che la Barbie sta facendo un servizio fotografico in Indonesia, ma sta anche disboscando l'Indonesia. Allora lui, per tutta partita, ovviamente decide di mollarla, perché dopo tanti anni conoscere questa verità nascosta, questa è tremendo, insopportabile, la molla. E gli attivisti di Greenpeace diffondono ovviamente il filmato a mezzo internet, che viene tradotto nel giro di una settimana in una trentina di idiomi diversi, quindi poi anche scatenando un pandemonio a livello mondiale, e con molti clienti che scrivono sulla pagina della Barbie insulti alla Mattel, eccetera eccetera. Nel giro di una settimana la pagina Facebook viene chiusa e naturalmente cosa succede? Quelli di Greenpeace, come loro tradizione, zompano sopra il grattacielo della Mattel e srotolano uno striscione. Non c'è scritto Greenpeace, non ci sono scritti degli slogan ecologisti, e una gigantografia di Ken Carson imbronciato, arrabbiato, con sottoscritto, certo, Barbie, it's over, Barbie è finita, è chiusa. Non esco con delle ragazze che hanno a che fare con la deforestazione. E insomma, poi è finita bene, perché credo che poi abbiano certificato i packaging. Eh sì, perché nel giro di un mese poi la Lego, la prima a fare un comunicato stampa, retrocedendo dal contratto, seguita dall'Hasbro e seguita alla fine anche dalla Mattel. Nota bene, è un cambio di policy che coinvolge miliardi di budget, certo, ovviamente, perché si retrocedono dal contratto con la Asia Pal Paper, che era l'azienda orientale, e invece si affidano a una foresta certificata, credo del Nord Europa. E tutti vissero felici e contenti. Noi, questa purtroppo, il nostro tempo è terminato, però insomma tutti questi aneddoti, queste storie si possono trovare in questo libro, La scienza dal giocattolo, Codice Editori, che è un giocattolo per grandi, per chi si sente ancora bambino un po', no? Sì, assolutamente. E poi al fondo del libro c'è questa gelatina che uno stacca, che serve per vedere delle immagini nascoste, quindi anche un grande regalo dell'editore, gelatina rossa, che si è inventato un modo per giocare con il libro, quindi rendere non solo un libro che parla di giocattoli, ma un giocattolo con dentro un libro. Grazie mille Davide, davvero grazie, in bocca al lupo per questo lavoro. Bel libro. Grazie a voi. Aprite un motore di ricerca e nella finestra di interrogazioni inserite Giuseppe Garibaldi. In circa 0,18 secondi il motore vi restituisce 4.870.000 link. È il dato che mi esce da un motore, ma saremo intorno a questo numero con tutti gli altri, quelli più importanti. Se mettete Giuseppe e basta, cosa vi aspettate? Che la cifra salga? Certo che è così. A me viene fuori 196 milioni in 0,20 secondi. Santo cielo, che potenza impressionante che oggi è in grado di esprimere l'informatica e la rete. In un quinto di secondo un motore riesce a perlustrare tutto quello che c'è in Inter che contiene Giuseppe, trova 196 milioni di pagine e me le mette sul monitor. Pensate questo? È sbagliato. Non funzionano così i motori. Non guardano tutte le pagine ogni volta che uno fa un'interrogazione. Il meccanismo è il seguente, che comunque è notevole, attenzione, però è più umano, anche se definire umano un motore di ricerca, vabbè, comunque ci siamo capiti. Dunque, il motore ha tante macchine che vanno in rete in continuazione e scaricano tutte le pagine che trovano. È un lavoro che viene fatto a priori, non per rispondere alle domande del pubblico, è un'attività parallela, costantemente aggiornata. Per ogni pagina catturata, il motore crea un elenco di tutte le parole in essa contenute. Se Giuseppe appare tre volte, aggiunge il valore 3 con relativo indirizzo della pagina a un elenco alfabetico in cui c'è la parola Giuseppe. È vero, qui viene fuori la grande potenza e velocità dei computer odierni, che sono quindi in grado di avere un gigantesco indice alfabetico di tutte le parole che si possono trovare in rete, in tutte le lingue. Io non non so dirvi quante sono, ma mettiamo che siano 3 miliardi. Va bene, maneggiare queste cifre è banale per un computer. Allora, eccoci al punto. Quando chiedete Giuseppe, il motore va nell'elenco alfabetico e trova la cifra 196 milioni con i relativi link. È ovvio che vi restituisca il tutto in 0,20 secondi. Ha già fatto il lavoro prima, no? Volete un suggerimento per un gioco da fare nelle sere delle feste? Fu inventato qualche tempo fa, e forse qualcuno di voi lo conosce, e si chiama Google Walking, e fu inventato per sfidare Google, significa battere Google. Si gioca così. Inserite Giuseppe, escono 196 milioni di link, come si è detto. Aggiungete Garibaldi, si passa a 4 milioni e 870 mila link, come vi ho detto. Adesso ci mettiamo anche Frullatore. Si va a 120.000. Proviamo ad aggiungere Gastroenterite. Ok, lo facciamo. Siamo a 332 link. Buttiamoci sul geografico con Nilo. Siamo scesi a solo 149 link. E poi sferiamo un attacco che potrebbe essere mortale con Spread. Non basta nemmeno Spread, perché siamo a 39 risultati. Ci vuole un colpo finale. Il gioco, l'avrete forse capito, consiste nel far dire al motore che ha zero link da proporvi. Così l'avete battuto. Naturalmente si gioca in 2, 3, 4 anche. Vince chi azzera per primo il motore. La vera sfida, anzi, sta anche in chi lo azzera con la stringa di parole più corta, se volete, con l'insieme di parole più corte. Allora attacchiamo Google con Tiruchirappalli, ridente cittadina per villeggiatura nel sud dell'India. E Tiruchirappalli fa dire a Google zero link. Il grande motore si è arreso. Tocca a voi adesso. Molto tempo fa, in una trasmissione di scienza radiofonica, verso la fine di Natale, due giornalisti di scienza e un docente di veterinaria raccontarono il caso del gallo che perse la coda. Così racconteranno i testi di storia della scienza radiofonica, quello che stiamo per raccontarvi adesso. Chiara introduce il nostro ospite. Sì, è venuto a trovarci questa volta, è una storia della nostra clinica degli animali un po' live, ecco. È venuto a trovarci qui in studio, giusto Natale, insomma, dobbiamo farci gli auguri. Daniele Vigo, che è veterinario e docente della facoltà di veterinaria presso l'Università Statale di Milano, è già stato nostro ospite che ci raccontò dei vitelli del signor Armando, trovate tutto sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Ma in questi giorni gli è giunta alla mente un'altra storia molto interessante che parla, come dicevamo nei titoli, di galli dalla coda spelacchiata. Daniele, vogliamo iniziare? La clinica degli animali. È un giallo anche che è durato parecchio tempo, perché parliamo di clinica, occorre arrivare ad una diagnosi, e qui arrivare alla diagnosi non è stata facile. E la faccenda del gallo che ha perso la coda mi è venuta in mente nel periodo natalizio, perché questo gallo era il papà di tanti capponi. Ecco. E quindi non un gallo felicissimo, non, di questi, no, tempi. Era, beh, lui, il padre, lui era, in realtà era il padre, era il padre, però insomma, ecco, avere dei figli, gli cucinavano i figli, purtroppo i figli, le figlie avevano un altro percorso, ma i figli maschi, insomma, sappiamo come va a finire. E questo era il gallo di un signore che io dico sempre non ho mai avuto idea quando l'ho conosciuto, perché con ogni probabilità era in fascia e mio papà mi portava a prendere il latte nel cortile di questo signore. Un amico d'infanzia proprio. Sì, un amico d'infanzia. E lui ha sempre seguito i miei studi, si informava, perché da agricoltore voleva sempre avere le novità, l'ultima cosa. Poi, fatta veterinaria, una domenica verso mezzogiorno me lo trovo a casa e mi chiede, grattandosi in testa, come mai il suo gallo ogni tanto perde la coda, o meglio, perde un parecchie piume, non quelle lunghissime, ma quelle più corte. Aveva la coda spelacchiata. Aveva la coda spelacchiata. Scusa, roba che non dovrebbe accadere. Non dovrebbe accadere. Cioè, i galli non tendono a perdere. Non tendono a perdere la coda. Fanno una muta, perdono ogni tanto qualche piuma. Quindi doveva avere una patologia rara. Io, vabbè, le dico, vengo a vedere il gallo. E vado a vedere sto gallo, un bellissimo gallo, con dei colori alla Ligabue, a Van Gogh. Bellissimo, come cosa. Variopinto. Però con sta coda un po' ridotta. rispetto alla tipologia del gallo. Piume in giro non se ne vedono. Prendi il gallo, guarda la coda. Sì, mancavano effettivamente le piume, ma tutto finiva lì. Il gallo mangiava, il gallo stava bene, il gallo cantava. E è prezioso, perché questo gallo mi serve per la produrre i capponi. Quindi non dobbiamo perderlo. Ma no, dico, insomma, tutto sommato sta bene. Quindi difficile la diagnosi, perché difficile senza sintomi. Diagnosi. Fatto sta che poi uno comincia ad andare a guardare su qualche libro, sente qualche collega, sente cose, ma nessuno aveva mai sentito parlare di questa cosa. Circa 6 mesi dopo, la questione si ripresenta ancora. Sempre più e meno. Un po' di piume in meno. Vabbè, fatto sta che la faccenda si ripete ancora l'anno successivo e siamo sempre alle solite. Insomma, scusi l'ignoranza, Vigo, di solito i galli non perdono, o se perdono eventualmente ricrescono. Ricresce, ma perdere le piume in un colpo solo è una cosa, stranissima. Ecco, si pensava a qualche volpe, qualche faina, però una piuma in giro non c'era. Ah, giusto, un predatore misterioso. Niente. L'inizio della soluzione del problema si ha un paio di estati successive. Io sono in giro in bicicletta e trovo, fermo ad un passaggio livello, il nipote di Angelo. E ci si ferma, lui è in macchina, io sono in bicicletta, il ciclista si appoggia alla macchina e si chiacchiera del più del meno. Allungo gli occhi e sul sedile in fianco c'è un mazzo di piume. Probabilmente un mazzo di piume molto simile. Ma per colore, per coso, erano molto attinenti al gallo dello zio. Facendo finta di niente, ma cosa fai con quelle piume lì? Mi servono per suonare. Oibò. Piume che servono per suonare. Fatto finta di niente, dico, ma cosa suona con le piume? No, non fanno rumore, sono leggere. Ho detto, scriverà la musica. Magari su qualche... spartito prezioso. Su qualche antico musicista. Fatto sta che poi è successo ancora una volta la storia del gallo, lì batti becchi tra me e Angelo. Io non so niente, non capisco niente, portiamo il gallo a Milano, lo facciamo visitare. No, il gallo non si muove da casa mia, se no me lo mangiate, insomma. Scusi Vigo, il gallo era sempre lo stesso o si ripresentava anche con altri esemplari? Si è ripresentato anche con i suoi figli, qualche suo figlio. Una malattia genetica. Era una malattia genetica. Capito che la questione era sul nipote, che le piume del gallo gli servivano per suonare. Ci è voluto poi una festa paesana per capire la cosa. Io vedo questo nipote che suona il piffero, che è uno strumento. Un flauto. Non è un flauto, sono andato a vedere, è un oboe, per cui ha delle caratteristiche peculiari di suono, di tipologia. Sulla parte più distante del piffero c'è una bellissima piuma del gallo. Sarà modulatore del suono, no? Ci dica cosa serve. Cosa serve? È una cosa semplicissima, è un sistema di riciclaggio, di utilizzo di uno strumento particolare, la piuma, che serve per pulire il foro dell'ancia del piffero, in modo che ci sia sempre un flusso corretto di aria. Ma è una roba che si usa regolarmente? Eh? Sì, ho visto anche, ormai c'è in rete qualche suonatore di questo antico strumento. E porta sempre la penna del gallo. Solo che bisognerebbe magari avere la delicatezza di prenderlo da dei galli morti, non da quelli vivi. Comunque avvisare il... però chi avvisa Angelo che uno va là a togliergli la coda. Io no. Ecco, il problema era questo. Però lei ha tirato un sospiro di sollievo, non è che era un veterinario scapestrato. No, ho capito che non c'era nessuna malattia infettiva, non c'era nessun rischio per l'animale. L'unico era che bisognava avvisare Angelo che la questione era una pifferite. una pifferite. Il problema si è spostato. Allora, primo, avvisare il nipote, non andare a prendere il gallo più bello che ha tuo zio, perché quello la protegge. Probabilmente ci vuole lo stallone del pollaio. Ci vuole lo stallone. Prendi qualcos'altro, no? Dall'altro a dire Angelo, ma guarda che ho capito, può succedere ogni tanto che i galli qualcuno recuperi qualche piuma, qualche cosa. Cioè lei ha tentato di fare diplomazia familiare. Cercato di fare diplomazia. Fatto sta che poi cambiando, andando su un altro gallo, non lo stallone pregiato del sistema, le cose si sono calmate. Bene. Però abbiamo appurato che la coda, la penna della coda del gallo è indispensabile per suonare il piffero. Questo proprio non lo sapevamo. Questa è una storia bellissima. E tra l'altro una storia strana, perché noi l'abbiamo raccontata nella nostra clinica degli animali proprio per dire che non c'è una malattia per la coda spelacchiata dei galli. Siamo sereni. Almeno, diciamo, delle note, esatto, per suonare il piffero non è una malattia. Ecco. Va bene, grazie mille Vigo. Davvero buone feste, perché ci siamo. E tanti in questi giorni stanno consumando i cosiddetti capponi. Auguri. E questo che sentite è proprio il piffero del nipote che rubava le... Il piffero spennacchiato. Perché in fondo, poi sul nostro sito lo metteremo, ma in fondo c'è proprio la penna del gallo, esatto, insomma. Esatto, ce l'ha detto lui, il professor Vigo. Sembrano un po' gli zampognari. Sembrano un po' gli zampognari. Tema natalizio. Sì. E del resto abbiamo aperto con il Manzella Quartet e finiamo in musica. Con le zampogne, che fa sempre feste. E allora buona festa a tutti. Buone feste a tutti, da Möbius.